Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la vicenda Ilva ce ne occuperemo alle 18.15, vicenda che si è tutt'altro risolta oggi a Palazzo Chigi, incontro del Presidente del Consiglio Enrico Letta, i vertici dell'Ilva, anche i ministri dello sviluppo economico Flavio Zanonato e Andrea Orlando, il ministro dell'Ambiente. Ieri, come abbiamo raccontato, si era svolto un pre-vertice tra appunto il ministro dello sviluppo economico ma anche il presidente della regione Puglia Nichi Vendola e il gruppo Ilva, che ha definito la situazione estremamente critica, a rischio la continuità della produzione con gravi conseguenze potenziali sull'occupazione dei 20.000 dipendenti diretti. Sono 40.000 in tutto le persone che lavorano per l'Ilva, considerando l'indotto. Il sequestro per 8 miliardi e 100 milioni di euro disposto dalla Procura di Taranto sui beni della Riva che poi non è FIRE ma è FIRE, perché è un acronimo italiano, comunque renderebbero impossibile, secondo i vertici dell'Ilva, la produzione e il risanamento degli impianti, con il rischio di portare la situazione fuori controllo. Ieri, tra l'altro, come è oggi presente su molti giornali, una trentina di capi reparto citati nell'ordinanza del GIP come agenti nell'interesse di Riva Fire hanno minacciato le dimissioni per protesta. Attualmente, tra l'altro, si trovano nell'impossibilità di pagare qualsiasi cosa, carte di credito, rimborsi bloccati, perché sono stati bloccati i beni, e vedono a rischio gli stipendi. Però questo è il fronte dell'impresa. Sono emerse durante il vertice di ieri anche gravi inadempienze da parte del gruppo nell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, con una decina di prescrizioni volte appunto a tutelare la salute di chi abita vicino agli stabilimenti, una decina di prescrizioni non ancora, dicevo, messe in pratica. Situazione estremamente critica e complicata, lo dico perché non è facile occuparsi di una vicenda in cui, se un'analisi grossolana vede l'alternativa tra mantenimento dell'occupazione o tutela della salute. È un'alternativa che non vorremmo mai vedere, ed è giusto che poi comunque vengano date anche le responsabilità se non vi sono stati adempimenti a quanto richiesto. Questo per quello che riguarda la seconda ora del programma. Nella prima ora del programma invece ci occuperemo intanto di un'intervista realizzata dal nostro Dario Ricci con il numero uno di Unicredit, anche e soprattutto sul rapporto banca-impresa, mi riferisco a Ghizzoni, ma ci occuperemo anche di quello che accapiterà domani in Europa, l'attesa sospensione, o meglio revoca della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché il nostro deficit non è più sopra il 3%, le attese. Già ieri il Premier Letta ha chiarito che quei soldi saranno utilizzabili, i soldi in più sono 8 miliardi circa dal 2014. Il rischio, come scrive molto bene a mio avviso oggi sul Sole 24 Ore Adriana Cerretelli, il rischio è che i paletti che l'Europa metterà per levarci domani la procedura di infrazione, quando un paese è sopra il 3%, si apre una procedura di infrazione. Domani ce la levano perché il percorso è virtuoso sotto il 3%, però il rischio è, dicevo, che i paletti che verranno messi siano talmente forti da rendere quella di domani una vittoria di Pirro, cioè una vittoria mutilata, una vittoria non dico ridimensionata ma molto svuotata di quello che potrebbe essere. Questo è il rischio che molti osservatori paventano. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Più Sole 81% in questo momento Milano, più 1,50 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 1,80 Londra, con un euro a quota 1,28, bene quindi tutte le borse europee. A influenzare bene Milano e soprattutto i titoli bancari c'è stata oggi anche l'asta dei titoli di Stato, i CTZ, 2 miliardi e mezzo con scadenza dicembre 2014. Voglio dire, forse sarebbe il caso di festeggiare, perché dopo che siamo occupati per anni, o meglio per un anno, dello spread ai massimi, del rischio sui titoli di Stato italiani e su un 7% di rendimento come soglia tra riuscire a rimborsare i debiti contratti per lo Stato e non riuscire a rimborsarli, oggi la buona notizia è che il Tesoro non solo ha collocato tutti i 2 miliardi e mezzo di euro di CTZ, ma non solo la domanda è stata una volta e mezzo l'offerta, ma soprattutto li ha collocati al minimo storico nei rendimenti, cioè l'Italia per trovare finanziatori per il suo debito ha dovuto offrire solamente l'1,113% di rendimento contro l'1,16% dell'asta precedente. Ripeto, mai così basso l'esborso per lo Stato per trovare finanziatori attraverso i CTZ, e direi che si può anche iniziare con una campana, no? Credo che non è che capiti spesso di iniziare con le campane, però il fatto che il nostro debito con scadenza nel 2014, dicembre 2014, venga visto così affidabile da, appunto, da permettere al Tesoro di abbassare il minimo storico quello che devo offrire come rendimento è sicuramente una buona notizia. Non è una buona notizia invece quello che oggi fotografa la Corte dei Conti, il suo presidente Luigi Giampaolino, evidenzia che nel periodo 2009-2013 la mancata crescita nominale del PIL ha superato i 230 miliardi cioè 230 miliardi di crescita in meno rispetto a quello che avremmo potuto fare. Servono stimoli alla crescita ma non deroghe alla spesa. Le emergenze, dice Giampaolino, sono la decrescita e la disoccupazione. Le politiche di rigore, qui lo dice il Presidente della Corte dei Conti, l'intensità delle politiche di rigore adottata dai vari paesi europei è stata essa stessa una rilevante concausa dell'avvitamento verso la recessione, cioè la politica dell'austerity ha avuto un effetto prociclico, ha aumentato l'intensità del ciclo, peccato che il ciclo fosse negativo e quindi ha aumentato l'intensità della recessione, quindi dell'avvitamento verso la recessione in buona parte dei paesi europei. L'adozione di una linea severa di austerità, oggi oggetto di critiche e ripensamenti, non ha peraltro impedito che gli obiettivi programmatici assunti all'inizio della legislatura fossero mancati. Anzi, alla luce dei risultati, l'intensità delle politiche di rigore adottate dalla generalità dei paesi europei è stata essa stessa una rilevante concausa dell'avvitamento verso la recessione. E poi la stessa Corte dei Conti a dire che la riduzione delle tasse, della pressione fiscale in Italia è un obiettivo non facile da coniugare con il rispetto degli obiettivi europei, quindi insomma molto difficile che le tasse caleranno visto gli obblighi presi con l'Europa, però possono essere più eque. Dice infatti della Corte dei Conti, una scelta più percorribile nell'immediato è aumentare l'equità distributiva del prelievo. Il mercato immobiliare, restiamo in Italia, non riesce a uscire dalla crisi, questo lo stiamo raccontando da mesi, e l'ultima conferma arriva da un meno 24% delle transazioni registrato dal rapporto dell'Agenzia delle Entrate con l'Associazione Italiana Leasing, la Silea. In totale gli scambi sono stati pari a 14 miliardi di euro, 14 miliardi e mezzo, 4 miliardi e mezzo in meno rispetto al 2011. gli stipendi degli statali. Allora, il ministro della pubblica amministrazione Giampiero D'Alia ha detto che il blocco degli aumenti, quindi degli stipendi dei dipendenti pubblici, resterà fino alla fine del 2014. Ha detto: mi auguro che si possa sbloccare il rinnovo contrattuale dal 2015. Ha poi chiesto che la spending review parta, ma la vera spending review, quindi non i tagli orizzontali, ma riqualificare la spesa e valutare effettivamente l'efficienza dei servizi. E quindi i tagli lineari non hanno fatto bene alla pubblica amministrazione. Con il blocco del turnover, quindi delle sostituzioni, quando qualcuno va in pensione, abbiamo lasciato fuori dalla porta tanti giovani che hanno vinto il concorso pubblico. Dobbiamo invertire questa tendenza. Ancora due notizie per quello che riguarda le ferrovie, anzi una notizia per quello che riguarda le ferrovie dello Stato. Perché? Lo dico perché l'antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria sulle ferrovie dello Stato per verificare se il gruppo abbia abusato della propria posizione dominante per favorire Trenitalia, ostacolando il concorrente privato NTV. Lo ha annunciato la stessa autorità e stamattina rappresentanti dell'antitrust si sono presentati nella sede di Ferrovie dello Stato per condurre un'ispezione in relazione proprio alla denuncia presentata dalla società NTV. ...349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Oggi tanti temi, il nostro appuntamento quasi quotidiano con sprechi, cattivo utilizzo della pubblica amministrazione, ma non solo, delle regioni, degli enti locali. Lo riprenderemo anche domani, non è un appuntamento fisso, di fisso in questo programma c'è solo la borsa, quando c'è. E allora partiamo subito invece con, non tanto con quello che capiterà domani, ormai lo sappiamo tutti, domani l'Italia non sarà più sotto osservazione per il deficit eccessivo, ma con quello che capiterà da dopodomani, perché mi sembra che si stiano creando un po', io capisco la fame, la voglia di risorse, la voglia di dare una svolta alle politiche economiche, ma mi sembra che si stiano creando un po' troppe illusioni. Ottime chance, ha detto oggi il ministro dell'economia, per chiudere domani la procedura di infrazione contro l'Italia. E quindi, insomma, devo dire, da questo punto di vista sarebbe veramente una sorpresa l'opposto. Il ministro degli esteri Emma Bonino però getta acqua sul fuoco, perché dice: attenzione, la chiusura della procedura è un evento importante, ma spero che non dia troppe illusioni, nel senso che non vuol dire che da dopodomani si riapre chissà quale rubinetto. E devo dire che oggi su Sole 24 Ore c'è un articolo, ma a mio avviso molto illuminante, sul tema. L'Europa non ci fa nessuno sconto. Ed è di Adriana Ceretelli, che è in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, vari passaggi di questo articolo, adesso tu li illustrerai. Però tu ricordi una cosa. Attenzione, il paese è sull'orlo del baratro. Ci sono debolezze strutturali che ci condannano a questa scarsa crescita, e Bruxelles è probabile che ci metterà tanti, se sintetizzo in maniera un po' brutale, tanti di quei paletti che ci sarà poco da festeggiare. Allora andiamo con ordine. Intanto domani ci levano una procedura che abbiamo avuto noi, ma per esempio non hanno avuto a suo tempo Francia e Germania, perché il loro governo Berlusconi-Tremonti nel 2003 preferì non umiliare Francia e Germania, convinto che ci avrebbero poi trattato meglio. Così non è stato. Però domani a noi viene levata una procedura di infrazione che avrà tecnicamente quali conseguenze? Così spieghiamo a tutti. Dunque, la Francia è in procedura per deficit eccessivo. Sì, ma no, io mi riferivo a quella del 2003. Ma ci sono circa 17 paesi che sono in deficit eccessivo. Con la crisi sono andati più o meno tutti, perché soprattutto i paesi nordici hanno dato un sacco di soldi alle banche, e questo ha totalmente sballestrato i parametri del deficit e del debito. Ma comunque, a prescindere da questo, domani ci toglieranno da questa procedura. Ma lo faranno perché siamo riusciti a rimanere sotto il 3% e a programmare di restarci anche l'anno prossimo. Questo però non vuol dire che se dovessimo sfondare di nuovo la soglia non ritorneremmo, cioè questo è un fatto, perché molti hanno, parlando con la gente a volte, sì, in Italia c'è la sensazione che dice siamo usciti, basta, no, si rientra. Come esci ci rientri, diciamo. Se, esatto, dentro fuori, speriamo. È un tunnel, puoi uscirne per poi rientrare, dipende come è fatta. Il percorso, allora, però ecco, che cosa ci permetterà? Uno dice, quali sono i vantaggi? Ecco, allora, i vantaggi sono i seguenti, che se tu sei sotto il 3% hai la possibilità di utilizzare i margini per cui ti trovi sotto il 3% e di investirli in naturalmente in sviluppo, in occupazione, in investimenti, in infrastrutture, insomma comunque in qualche cosa che ti dia una crescita sostenibile, non lo so, nelle assunzioni a gogo nel pubblico impiego, ecco, tanto per dire una stupidaggine, certo, ma in qualche cosa che garantisca una crescita sostenibile e non l'allegra finanza pubblica, per dire una frase un po' abusata. Nel nostro caso comunque i margini di manovra non saranno un granché, perché si parla dai 7 ai 12 miliardi, quindi per carità averceli, ma prima non ce li avevamo. Comunque questo sarà più o meno la boccata d'ossigeno, però per esempio questo ci potrà permettere di cofinanziare altri soldi che sono quelli per esempio dei fondi strutturali, erano circa 16 miliardi che noi non potevamo utilizzare in quanto, diciamo, le pastoie imposte dall'Europa sui nostri margini di manovra ci impedivano questo cofinanziamento. Poi comunque in questo momento diciamo che in generale l'Europa sembra prendere una strada un pochino meno rigorista e un pochino più pro crescita e quindi si parla anche per esempio per incentivare l'occupazione, finanziare la piccola e media impresa, di sfruttare anche l'effetto leva della ricapitalizzazione per 10 miliardi della Banca Europea degli Investimenti e questo dovrebbe mobilitare oltre 60 miliardi sempre per tutti i 28 paesi, però insomma anche quello potrebbe essere una valvola di sfogo. Diciamo che l'uscita dalla procedura ci consentirà di muoverci un pochino di più di quanto abbiamo potuto fare finora, però senza grandi illusioni, anche perché Allora, ci saranno naturalmente delle condizioni alla nostra fuoriuscita. Le prime sono quelle ovvie, che non potremo mai superare il 3% di deficit, che dovremo mantenere sempre un surplus primario piuttosto alto, 5,5% del PIL, cioè diciamo la spesa al di fuori depurata degli interessi. Poi dovremo naturalmente ridurre il debito secondo il dettato del Fiscal Compact, questo a partire dall'anno prossimo, che ci imporrà una discesa del debito di circa 40 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni, fatto salvo diciamo fattori eccezionali. Dunque, per esempio, la recessione è un fatto eccezionale. Questo potrà temperare un po' l'impegno, ma non certo annullarlo. Questo è il quadro, diciamo, di finanza pubblica, che come si può vedere non è un quadro a maglie larghe. Poi ci saranno altre condizioni, che saranno quelle relative al recupero di competitività attraverso le riforme strutturali. E anche quello è un impegno molto serio, anche perché diciamo questo non ha a che vedere con la procedura antideficit, ma con le nuove regole del patto di stabilità rafforzato e del cosiddetto semestre europeo, cioè quello che prevede il coordinamento delle politiche economiche, quindi anche coordinamento delle riforme per migliorare l'efficienza di sistema. e in questo caso quasi certamente ci sarà l'invito alla flessibilità del mercato del lavoro, l'invito ad abbassare la fiscalità decisamente oppressiva su imprese e sempre lavoro. Certo. Tu citavi per esempio un caso emblematico, cioè il fatto che la burocrazia italiana, insomma, in questo caso mi riferisco all'incertezza del diritto, perché noi parliamo sempre di diritto penale in questo paese, ma il diritto civile e amministrativo, insomma, ci vogliono in questo paese 493 giorni per ottenere da un tribunale civile una sentenza di primo grado, 1200 giorni per arrivare in fondo a un contenzioso, dopo aver espletato 41 procedure necessarie, con un costo che in media è pari al 30% della somma contesa. Pensate che di giorni contro i 490 italiani ce ne vogliono 280 in Francia, 270 in Spagna, che non è la Svizzera o la Scandinavia. Certo. E voglio dire, tra l'altro, alla fine del contenzioso uno ha speso in procedure legali il 30% in media di quello che è l'oggetto della somma contesa. In Germania arriva a spendere al massimo il 14%, a Parigi il 17%. Giusto per dire che poi, insomma, quando si parla di riforma della burocrazia e di rendere più competitivo il paese, ci va di mezzo anche la giustizia civile, i magistrati, il lavoro, l'organizzazione delle procure e quant'altro, dei tribunali. Non pensiamo che qua inefficienti siano sempre solo gli altri. T'ho interrotto, Adriana, scusami. No, ma a proposito di quello che stavi dicendo, un altro aspetto molto importante del, diciamo, risanamento delle nostre strutture istituzionali è anche quello per cui tra tasse eccessive, lavoro rigido, pubblica amministrazione che non funziona, giustizia non ne parliamo, gli investimenti esteri non vengono più in Italia, e in un momento di crisi come l'attuale, con pochi margini di manovra finanziaria, sarebbe veramente essenziale poter contare anche su un contributo degli investimenti esteri. Ma questo secondo me è uno dei danni più gravi che le disfunzioni della pubblica amministrazione, sì, una legislazione farraginosa eccetera, fanno al paese. Beh, guarda, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Francesco Giavazzi, che è incaricato di mettere a efficienza gli aiuti alle imprese. Disse, insomma, io non sono riuscito a fare il mio lavoro perché, nonostante la Confindustria avesse detto esplicitamente rinunciamo ai 10 miliardi di incentivi purché ce li diate come diminuzione delle tassazioni in busta paga, e nonostante Monti fosse d'accordo, poi tutto si è bloccato nel dicastero del Ministero delle Attività Produttive, nei vari dirigenti che occupano ruoli chiave e che avrebbero dovuto chiudere, adesso la faccio breve, un po' banale, avrebbero dovuto chiudere i loro uffici, cioè i corpi tecnici dello Stato delle volte remano contro, diciamocelo tutta su questo. Ma più che delle volte direi quasi sempre. Ecco, io volevo essere buono, ma insomma la burocrazia non vuol dire solo fare l'ennesima legge, vuol dire ridurre e sfoltire. Detto questo, avrei un'ultima domanda per te. Adesso io chiedo una cosa, va bene tutto, noi abbiamo un debito alto, però io se fossi un marziano vedrei che Francia e Spagna hanno ottenuto 2 anni in più per andare sotto il 3% del deficit. A noi riusciamo a fare quello che abbiamo promesso, ma ciò nonostante non basta, perché dobbiamo fare i compiti a casa di nuovo per tutti i paletti che diciamo. Non è che ci sia un'attenzione, io sono dell'idea che l'Italia debba fare le riforme e basta, ma non c'è un'attenzione eccessiva nei confronti dell'Italia. Voglio dire, la Francia la riforma delle pensioni deve ancora farla, quella del pubblico impiego è sicuramente più efficiente, ma non è che abbia dei tassi di produttività altissimi. Non c'è un concentrarsi sull'Italia in maniera particolare, forse anche per la situazione politica, non c'è un leader, diciamo, espressione forte delle elezioni. Prego. Allora, l'Italia è la terza economia dell'euro. La Francia viene ritenuta l'economia, cioè noi siamo, diciamo, un pericolo numero 2 dal punto di vista della stabilità dell'euro, nel senso che siamo una grossissima economia in grado di rovesciare l'euro. La Francia sarebbe ancora peggio, ma la Francia continua a godere della garanzia tedesca, che è quella che gli fa mantenere i tassi bassi, sia per quanto riguarda il rifinanziamento del debito, sia per quanto riguarda il finanziamento delle sue imprese, perché è diciamo vicino allo zero il tasso con cui si finanziano le imprese francesi. Ma questo perché? Perché la Germania continua a garantirla, perché la garantisce, non perché le voglia più bene che agli altri paesi, ma semplicemente perché diciamo la crisi eventuale della Francia, un attacco sui mercati, sarebbe insostenibile, certo, per tutti, anche per la Germania. Too big to fail. Esatto, too big to fail. Troppo grande per fallire. Sì, certo. E quindi questa è la ragione del fatto che la Spagna non è ancora, la Francia non è ancora entrata nel mirino. La Spagna, secondo me, si trova in una posizione per tanti aspetti non migliore della nostra, però ha sicuramente fatto più sforzi di noi dal punto di vista delle riforme strutturali, anche perché bene o male, avendo dovuto finanziare le banche ed essendosi in qualche modo esposta a sua volta allo status di sorvegliato speciale, insomma, ha dovuto in qualche modo stringere la cinghia prima di noi e più di noi. Detto questo, va anche aggiunto che la Spagna è un paese, virgolette, più serio di noi, nel senso che quando quelli decidono di fare le riforme, le fanno. Noi invece continuiamo ad annunciarle e molto raramente arriviamo al capolinea. In più c'è il fatto che il nostro debito è un debito molto grosso. Più grande di quello. E quindi si teme, a parte la Grecia, è il secondo debito, e quindi si teme sempre che questa instabilità, diciamo, economica, questa soprattutto la caduta della capacità di crescere, che è una caduta che dura grosso modo da 20 anni, perché sì, ogni tanto noi cresciamo un pochino di più, ma non siamo mai più diventati un'economia davvero dinamica. Allora, naturalmente, questo debito, che è sostenibile strutturalmente più di quello francese, però diventa in prospettiva meno sostenibile se non torniamo facciamo, a crescere, perché certo, ne saremmo schiacciati naturalmente. Allora, c'è chi dice: ma anche l'Italia non è too big to fail. Sì, lo è, infatti, diciamo, certo che lo è, certo. L'Italia lo è. Il problema, c'è anche una variabile politica. Tu hai detto molto bene, a mio avviso, la Francia gode dell'ombrello dell'asse franco-renano, diciamo dell'ombrello tedesco, perché è chiaro che se dovesse andare in crisi la Francia, la Germania non regge il colpo. Con noi era più facile, finché la Francia è ancora, si tiene in piedi, era più facile chiedere all'Italia un insieme di riforme strutturali. Io ritengo anche però che la debolezza politica italiana, cioè il fatto che non vi sia un premier da 2 anni ormai, espresso da un forte voto elettorale, pesi. Cioè, Monti era un tecnico messo lì per salvare il paese dal baratro. Letta è l'accordo, diciamo, di PD e PDL, per carità, regge per ora, ma continua le voci così. È inutile girarci attorno. Hollande, seppur ai minimi storici nel consenso, è stato eletto e ha vinto le elezioni. Lo stesso vale per la Spagna. Insomma, c'è anche una maggior forza politica, probabilmente, quando vieni investito da un voto elettorale che ti dà appunto la maggioranza. Grazie. È un problema di forza politica dal punto di vista proprio della capacità di governare, sì, di imporre le riforme che sono necessarie. Oltre che di andare a trattare in Europa. Per noi, perché io dico spesso, cioè al di là di tutte le mie riserve sulla politica eccessiva della Germania che lucra sulle spalle dei più deboli, eccetera, ma risanare i conti, fare le riforme, tornare ad essere competitivi, cioè è solo nel nostro interesse, tanto più che l'Europa di oggi e quella di domani sarà sempre meno solidale, sarà sempre meno Europa, quindi diciamo è nell'interesse nazionale primario quello di dire cambiamo musica, perché così non resisteremo a lungo. Chiaro. Chiaro, domani poi vedremo tutti le varie procedure e poi ne parleremo anche, lo dico subito, venerdì in diretta da Trento, dove Radio 24 sarà con i suoi studi, Piazzetta Poli, Pasi, qualcuno mi dà un... Comunque dietro il Duomo di Trento, con i suoi studi, e avremo ospiti appunto Daniel Gross e Luigi Zingales per parlare poi delle sfide che attendono l'Italia, dello scenario che sta emergendo a Trento, dico, per il Festival dell'Economia. Grazie a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, e adesso vediamo anche come ha chiuso la borsa. Più 2,10%, quindi sui massimi praticamente Milano, più 1,40 Parigi, più 1,16 Francoforte, più 1,80 Londra. L'America guadagna l'1,12%, beni bancari, dicevo, più 3,80 Intesa San Paolo, più 3,5 Unicredit. Ci risentiamo dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa, poi l'intervista con il numero di Unicredit e poi invece i temi dell'Ilva. Borse che hanno chiuso tutte bene, più 1,40% Francoforte, più 1,40 Parigi, più 1,16 Francoforte, più 1,80 Londra, più 2,10 Milano. Con Buzzi Unice in più 4%, Intesa San Paolo più 3,80, Popolare Emilia Romagna più 3,5%, Unicredit più 3,5%, Fiat più 3,5%, e poi Fondiere Assai più 2,70, Telecom Italia più 2,70, Enel più 2,60, Lottomatica più 2,5%, Eni più 2,20 come Salvatore Ferragamo. Negativa solo il Banco Popolare, un'eccezione devo dire tra le banche, meno 0,34%. E allora, visto che parliamo di borsa sia Livia Zancanè, buonasera. Buonasera. Allora Livia, l'asta di CTZ ha influito positivamente il rendimento storico ai minimi storici per i CTZ in scadenza a dicembre 2014. Tra l'altro vanno bene sia Milano che Madrid oggi, no? Sì, assolutamente. Cioè sì. Bene tutte, ma in particolar modo. Sì, Milano dobbiamo dire che è stata la borsa migliore, ha guadagnato oltre il 2%, Madrid era arrivata a guadagnare il 2,5% circa in giornata, ma poi ha ripiegato e per segnare un più 1,7% circa, in linea più o meno agli altri listini. Se vediamo ad esempio che Londra ieri chiusa per festività ha guadagnato circa l'1,8% e Parigi sì, 1,4% circa. Allora, poi tra l'altro questa è una settimana clou per le aste dei titoli di Stato, per i collocamenti del nostro debito, no? Sì, assolutamente sì, stamattina vi è stata l'asta CTZ e BTP che ha ottenuto, come dicevi tu, un successo e un andamento positivo. Domani, il giorno in cui l'Italia, ricordiamo, uscirà dalla procedura europea per deficit eccessivo, toccherà i bot semestrali, e giovedì ci sarà, diciamo così, l'evento ritenuto clou, ovvero l'emissione di BTP a 5 e 10 anni. Esatto, e vedremo. Comunque mi sembra di poter dire che per ora la partenza sia stata più che buona, poi vedremo. Domani lo spread è sceso, quanto è negli ultimi minuti? Lo spread è circa 254 punti base, ricordiamo che stamattina era 259, in linea alla chiusura di ieri, quindi sì, bene o male in lieve flessione oggi lo spread. Adesso parliamo anche delle banche, devo dire che c'è poco da dire, l'unica vera notizia forse è il Banco Popolare che perde lo 0,34, perché tutte le altre con questi dati sul mercato del debito italiano sono dati abbastanza attesi. Però perché perde il Banco Popolare lo 0,30? Il Banco Popolare ha iniziato in realtà a ripiegare verso il finale di seduta, perché prima guadagnava terreno, l'unico titolo negativo praticamente era Exor e Ansaldo nel primo pomeriggio, ha ripiegato, non vi sono notizie particolari se non quella conosciuta, cioè che l'istituto ha chiuso l'operazione di riacquisto titoli per un ammontare di circa 426 milioni di euro, e quindi potrebbe essere una questione tecnica, anche se al momento appunto non vi sono informazioni particolari. Molto bene, per non citare i bancari invece, Buzzi Unicem, che è il miglior titolo in assoluto, più 4% sopra i 13 euro per azione. Sì, assolutamente sì, il Buzzi Unicem ha beneficiato da una parte del buon andamento del settore costruzioni, che ricordiamo beneficia solitamente di una congiuntura economica più positiva, ma anche del giudizio rinnovato di alcuni analisti che avevano già premiato il titolo alcuni giorni fa, ma che sono tornati appunto a consigliare l'acquisto sulle azioni, soprattutto per il buon andamento del mercato americano. Ricordiamo che gli Stati Uniti rappresentano il 26% del fatturato di Buzzi Unicem, il 35% del margine operativo lordo, e le attese sono perché gli Stati Uniti guidino la crescita del margine operativo lordo della società quest'anno di un 11% circa. Ancora bene anche i Italcementi, sempre nel settore delle costruzioni oggi, e la controllante Italmobiliare, no? Sì, Italcementi e la controllante Italmobiliare sono andati molto bene. Le risparmi non convertibili di Italmobiliare hanno fatto più 4,70 tra l'altro. Sì, Italcementi ha guadagnato invece il 3,22%, Italmobiliare l'1,8%. 8%, vi sono alcuni giudizi positivi dopo i dati che sono stati distribuiti da Bravo Solution, che è una controllata del gruppo. La società infatti è chiusa il 2012 con una crescita del fatturato di oltre l'11%, a quasi 72 milioni di euro, e quindi gli operatori stimano che il gruppo possa valorizzare le quote appunto nella società già controllata. Il traffico, poi torniamo in diretta. Giustamente dice un ascoltatore, ma com'è che la borsa continua a crescere mentre l'economia reale sta crollando? E fa il paio con un altro sms che è appena arrivato, che dice: caro Sebastiano, le borse hanno chiuso bene, ma quando ho aperto la mia non c'era nemmeno il becco di un quattrino. Ha ragione, ci torneremo su questo. Ci sono due possibilità: o, come tutti ci auguriamo, stanno scontando, crescono in anticipo perché anticipano una ripresa, oppure in questo momento c'è un po' di spinta. Devo dire una cosa però: sui titoli bancari, per esempio, è vero che sono molto cresciuti. Andiamo a vedere però come erano le quotazioni nel 2008 dei titoli bancari e vedete i margini. Detto questo, io mi auguro che stiano scontando anche in maniera un po' selettiva, ci auguriamo, una ripresa a fine anno, e comunque i dati buoni di alcuni gruppi, soprattutto quelli più internazionalizzati. Per esempio la notizia su Buzzi-Unicem la dice lunga: se va bene il mercato americano, lì hanno un quarto del loro fatturato e il titolo sale. Poi ci sono altri motivi su singoli titoli molto specifici, però mi auguro che sia questo lo scampato pericolo sul debito italiano, uno spread in calo che porta un po' di operatori a tornare a comprare. Traffico intanto. ...17:50, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo Livia Zancaner, al di là di Buzzi, Unicem e titoli bancari, oggi bene Fiat, di nuovo con o motivata da notizie sulla fusione con Chrysler. Sì, assolutamente sì, continua a correre Fiat sulle prospettive di un'accelerazione. Come già detto nei giorni scorsi, il progetto di fusione con la controllata Chrysler e di una futura quotazione a Wall Street. Per contro però ha perso leggermente il terreno Exor, che l'azionista di Fiat ha perso lo 0,08%, perché alcune indiscrezioni hanno riferito che l'operazione di fusione, ma poi l'operazione di quotazione in borsa, potrebbe passare da un aumento di capitale, un'operazione che potrebbe comportare una forte diluizione per Exor nel caso in cui non decidesse di partecipare alla ricapitalizzazione. Ancora per quello che riguarda invece Fondiaria Sai, anche qui il titolo si è mosso. Sì, il titolo si è mosso, ha guadagnato il 2,7%, oggi il Sole 24 Ore ha scritto che vi sono tre compagnie estere, ovvero Allianz, AXA e Munich Re, che sono favorite per aggiudicarsi gli asset che Fondiaria Sai deve vendere per motivi di antitrust legati alla fusione con Unipol, che oggi ha guadagnato il 2,6%. Vi è anche una valutazione degli asset che è fissata, che è stata stimata più che altro tra 500 e 800 milioni di euro. Ancora tra i titoli, oggi vorrei farla più estesa anche per recuperare l'aggiornamento di ieri mancato, avevamo lo speciale amministrative, Telecom Italia, c'è una debolezza complessiva del mercato, ma il titolo guadagna il 2,70%. Sì, il titolo guadagna il 2,7%, qua vi sono due, in realtà, due giudizi, chiamiamoli così, contrastanti. Da una parte gli analisti e gli operatori che studiano il settore TLC continuano a ribadire i timori per il deterioramento dello scenario competitivo in Italia. Dall'altra parte vi sono invece le scommesse e le attese sul possibile scorporo della rete fissa in vista del nuovo consiglio di amministrazione che si terrà giovedì e che dovrebbe appunto dare il via ufficiale alla societarizzazione della rete di Telecom. Fiat, ha ragione l'ascoltatore, ha fatto comunque alla fine più 3,5%. Da un lato, devo dire che Fiat Industrial anche è andata bene, più 2,13%. Segnalo come positivi, oltre ai titoli già citati, anche Enel più 2,60%, l'Automatica più 2,5%, Eni più 2,20%, come Salvatore Ferragamo e come Autogrill, e poi Mediobanca più 2% come Parmalat e Prismian e anche Azimut. I migliori e peggiori in assoluto oggi Neurosoft più 13,20%, Risanamento più 11,90%, Premuda più 9,96%, Alcatel, il gruppo Mutui Online più 9,87%, Alcatel Lucent più 6,5%. Peggiori invece, Rizzoli Corriere della Sera meno 3,20%, Seat Pagine Gialle meno 5%, EMS meno 5,80%, RG Capital meno 7,14%, KR Energy meno 7,77%, per la precisione, per 100%. Ce lo giochiamo sto numero. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi, buona serata. Un paio di risposte a una notizia che avevo trascurato, giustamente chi mi assiste in regia me l'ha fatto notare. Allora, la risposta: io non ho detto che la borsa stia scontando la ripresa dell'economia, ho detto che mi auguro che la borsa stia scontando la ripresa dell'economia e che quindi non sia una bolla, diciamo, di liquidità o comunque una voglia di andare a comprare per poi vendere d'estate. In questo momento non abbiamo visto grossissime tensioni sul fronte, diciamo, della speculazione sull'euro, anzi, devo dire, lo spread e lì in qualche modo rassicurarci, però ho detto mi auguro che non sia una bolla di sapone o una bolla, diciamo, di carta finanziaria, per essere più precisi. E invece la notizia che avevo malauguratamente dimenticato riguarda la Germania. In Germania le imprese tedesche hanno evaso al fisco, no, questo perché sembra che gli evasori ci siano solo in Italia, noi abbiamo un record nell'evasione, però le imprese tedesche hanno evaso 92 miliardi di euro nei bilanci del 2008. Hanno pagato solo tra il 2001 e il 2008 il 21% di tasse sugli utili, cioè molto meno di quanto previsto dal legislatore, ed è l'Istituto Economico Tedesco DIV a rivelarlo, eh. Quindi 90 miliardi di evasione all'anno per le imprese tedesche, con un record di 120 miliardi nel 2007, prima che scoppiasse la crisi. Arriva sempre dalla Germania invece un'altra notizia completamente opposta, ossia il via libera all'aumento del salario per i dipendenti della Volkswagen, 5,6% in due tranche. I 100.000 dipendenti delle fabbriche tedesche percepiranno appunto un aumento prima del 3,4% in busta paga e poi un altro aumento del 2,2% dal luglio del 2014. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms, così come la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso c'è il GR e poi appunto l'intervista a Ghizzoni. E il tema, ahimè, non risolutivo, ma dobbiamo raccontarlo, dell'Ilva di Taranto. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui andremo tra poco anche ad aggiornarvi sulla vicenda Ilva. Dicevo però del rapporto tra banche e economia italiana, perché il nostro Dario Ricci, nel corso di un evento assolutamente ludico come la finale della Champions League, vinta chiaramente dal Bayern Monaco sabato scorso, ha raggiunto Federico Ghizzoni, amministratore delegato del gruppo Unicredit, che tra l'altro il gruppo Unicredit, anche al di là della sua presenza in Germania, è sponsor complessivo della manifestazione, e ha ragionato un po' di tutto, a partire anche dall'idea del perché una banca si mette a sponsorizzare e associa il suo nome con la più importante competizione calcistica europea. Quindi un'intervista ogni tanto a cavallo tra economia e anche marketing, in questo caso, che ascoltiamo volentieri. I risultati sono eccellenti, decisamente meglio delle aspettative. Abbiamo aumentato in maniera significativa la cosiddetta brand recognition del gruppo, quindi il valore del brand è salito. siamo riusciti a coinvolgere parecchi i nostri clienti, basti dire che abbiamo venduto in questi 4 anni quasi 1 milione di prodotti in più grazie alla Champions League, 36.000 clienti sono venuti con noi allo stadio, quasi 500.000 persone che hanno partecipato al Trophy Club, quindi un grande evento che considero un investimento più che un costo perché sta portando dei risultati veramente importanti. L'ultimissima cosa, un investimento analogo in un'altra attività di marketing ritorna circa la metà rispetto a quello che è l'investimento nella Champions League, per cui alla fine abbiamo risparmiato direi rispetto alla normale attività di marketing, perché il ritorno della Champions League è doppio rispetto alla media. Brand decisamente in difficoltà invece quello dell'Italia, il brand Italia. Proprio di questi giorni è stato l'allarme del presidente Confindustria Squinzi che ha lanciato appunto questo allarme rispetto al nord. Il nord è al collasso, inevitabili le polemiche politiche, la sua valutazione è una situazione ancora di così estrema fragilità o qualche segno di ripresa è individuabile? Ma se uno legge la relazione di Squinzi, è stata presa questa frase il nord del collasso, ma non è stato preso quello che poi lui ha detto per dire che c'è però la possibilità di recupero. Secondo me c'è, io vedo ancora dinamismo nell'imprenditoria italiana. Adesso c'è bisogno di segnali concreti, pochi ma concreti, da parte del nuovo governo, e per me è molto importante il completamento del pagamento dei 40 miliardi perché questa è un'iniezione di liquidità di fatto, come se fosse una banca centrale che mette 40 miliardi di liquidità sul mercato, quindi lascio immaginare le reazioni positive. E poi una riforma del mondo del lavoro, non cambiando radicalmente quello che è stato fatto dal precedente governo, ma rendendolo più flessibile, incidendo sul cuneo fiscale perché è troppo costoso oggi il lavoro in Italia, poche altre cose. Occorrono dei messaggi alla fine e occorre stabilità politica, questo lo dico sempre, perché le aziende hanno bisogno di pianificare e gli individui hanno bisogno di certezza, insomma. Ecco, un governo che ha chiaramente calmierato l'incandescenza politica post-elettorale, ora anche dal punto di vista del sistema bancario chiedete azioni concrete. Sì, anche noi banche da un lato dobbiamo fare la nostra parte, certamente se le aziende hanno intenzione di tornare a investire noi dobbiamo finanziare gli investimenti. Personalmente Unicredit siamo decisamente intenzionati di farlo, stiamo aumentando, giusto per dare un esempio, i budget alle nostre filiali per fare credito, quindi ci stiamo mettendo tutta. Da parte del governo non è che chiediamo aiuti finanziari o altro, chiediamo anche noi di avere dei programmi davanti. L'unica cosa che chiediamo, se proprio vogliamo fermarci un attimo sulle esigenze delle banche, soprattutto sulla gestione fiscale dei crediti, degli accantonamenti su crediti, non tanto per avere un beneficio sul conto economico, infatti non parliamo del passato ma del futuro, ma soprattutto perché consentendo alle banche di scaricare gli accantonamenti su crediti si crea in realtà spazio per nuovo credito, quindi è fondamentale per il rilancio dell'economia, altro non chiediamo. Un tema specifico su cui venite spesso sollecitati è proprio quello dei mutui, no? Anche per ridare respiro al mercato edilizio. Da questo punto di vista cosa si può fare e cosa avete in progetto di fare? Insomma, sono due le cose da fare. Sul fronte del finanziamento dei mutui, come dicevo prima, noi abbiamo aumentato per l'anno in corso di 2 miliardi gli obiettivi dei nostri filiali, perché far mutui alla fine è utile anche per noi. Poi c'è un discorso diverso, secondo me va affrontato alla radice sul fronte del finanziamento dei mutui, quindi di creare un mercato di liquidità per far mutui. E bisogna prendere esempio da paesi importanti come la stessa Germania o l'Austria, che hanno creato una normativa che canalizza il risparmio delle persone nell'accumulo per poi comprare la prima casa con dei benefici fiscali. Questo funziona molto bene su paesi appunto avanzati come Germania ed Austria, quindi anche su quel fronte di indirizzare il risparmio in maniera specifica verso la prima casa, dando certezze all'investitore. Proprio in Austria si parte proprio dal giovane, e lo si incentiva a risparmiare, poi quando arriva il momento di avere il mutuo, c'è un mutuo ad un tasso già predeterminato, normalmente leggermente sotto la media del mercato ed è sussidiato dal governo locale. Non so se questo è replicabile al 100% in Italia, però bisogna lavorare su ambedue i fronti, creare liquidità sul mercato perché vada sui mutui e le banche devono poi canalizzarla nel modo corretto, insomma. Uno sguardo al sistema globale, i rovesci borsistici di questi ultimi giorni partiti da Tokyo per effetto anche dei risultati negativi della manifattura, dell'industria manifatturiera cinese, danno l'idea ancora di un'estrema fragilità del quadro complessivo. Sì, chiaramente c'era stato un boom delle borse a seguito dell'intervento della banca centrale giapponese, quindi sono ovvie prese di beneficio, però non siamo fuori certamente dalla crisi, quindi dobbiamo abituarci a una volatilità molto più alta del normale, anche se penso che il peggio sia alle nostre spalle. Cioè, io penso che nel 2014 le economie mondiali e anche europee e anche italiane faranno meglio nel 2013. Questa è l'intervista del nostro Dario Ricci al numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni. E mentre andava in onda l'intervista stavano arrivando però notizie sull'ILVA, che è il prossimo nuovo, l'ultimo anzi, tema di questa puntata. Poco fa ha parlato anche il vicepresidente della Commissione Europea responsabile per l'industria, Antonio Tajani, che ha detto che bisogna fare tutto il possibile per scongiurare la chiusura dell'ILVA, pieno sostegno all'azione del governo impegnato nel tentativo di trovare una soluzione alla vicenda complessa. Con il nuovo piano dell'acciaio che sarà varato l'11 giugno, ha aggiunto Tajani, si apriranno nuove possibilità per risolvere i problemi del gruppo siderurgico. E poi invece dal Ministero dell'Ambiente è arrivato il no a una eventuale proroga ai tempi fissati per l'autorizzazione integrata ambientale, perché alcuni giornali oggi avevano pubblicato una presunta proroga, l'ipotesi di una presunta proroga concessa all'ILVA sulla base del meccanismo del silenzio assenso, e invece il Ministero dell'Ambiente ha precisato che la decorrenza del termine di 60 giorni non dà luogo alla formazione di alcun silenzio assenso, in quanto restano comunque salve le successive determinazioni. Comunque il dato di fatto, la notizia, è che non vi sarà nessuna proroga rispetto ai tempi fissati e dati chiesti all'ILVA per ottemperare all'autorizzazione integrata ambientale. Di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri messaggi, la pagina di Focus Economia su Facebook. Quindi, nonostante così l'auspicio di Tajani, mi riferisco all'ILVA chiaramente, su cui ci eravamo lasciati, la situazione si complica. Allora, che cosa è successo? Per chi si fosse perso, ahimè, le puntate precedenti. Il sequestro operato la settimana scorsa, non mi sto riferendo, c'è un po' di confusione ogni tanto, ai beni dei fratelli Riva. Quella c'è tutta un'altra inchiesta in corso, le accuse sono varie, tra cui anche riciclaggio, evasione fiscale e quant'altro. Qui stiamo parlando dei beni del soggetto giuridico Riva e della società Riva Fire, perché si scrive, non si legge Fire, lo ripeto, è un acronimo dall'italiano. Comunque, la magistratura ha sequestrato, sulla base lo permette la legge, 8 miliardi e 100 milioni della Riva Fire, bloccandoli perché dice servono come risarcimento per i mancati, diciamo, adempimenti e messa in sicurezza dello stabilimento e i danni che ha creato. Allora, il problema qual è? È che il sequestro disposto dalla procura rende impossibile la produzione e il risanamento di impianti, con il rischio di portare la situazione fuori controllo. Questo dicono l'amministratore delegato Enrico Bondi e il presidente Bruno Ferrante. Tra l'altro anche i capi reparto sono nell'impossibilità di pagare qualsiasi cosa, le carte di credito e i rimborsi sono bloccati, vedono a rischio gli stipendi, i dipendenti, e ieri hanno minacciato le dimissioni per protesta una trentina di capi reparto. Questo è un fronte. L'altro fronte però è quello che è emerso ieri dal vertice, se gravi inadempienze da parte del gruppo Riva nell'attuare l'autorizzazione integrata ambientale, con una decina di prescrizioni non ancora messe in pratica. Domenico Palmiotti, che è il cronista, diciamo, da Taranto, che ci racconta ormai da quando è iniziata questa vicenda i vari sviluppi. Intanto buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Buonasera. Oggi l'incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Letti, vertice dell'ILVA, anche il Ministro Zanonato e quello dell'Ambiente Andrea Orlando. Sviluppi. E quali possibilità di uscita c'è? Perché se non fosse chiaro, da un lato la magistratura ha bloccato i beni del soggetto giuridico ILVA Fire perché dice voi non siete stati adempienti e la legge mi consente di prendere i soldi che mi servono per il risanamento ambientale, chiamiamolo un po' così, così ci capiamo tutti. Dall'altra però, bloccando questi beni, blocchi la liquidità, cioè il pagamento ai fornitori e forse anche gli stipendi, e quindi di fatto anche le eventuali opere le opere per mettere in sicurezza e rendere meno inquinante l'impianto. Ho descritto bene la situazione, Domenico? Certo, certo. No, sì, il vertice era cominciato questa mattina col Premier Letta e c'era anche il Vice Premier Alfano, si è interrotto intorno in tarda mattinata per riprendere oggi pomeriggio. Questo dà anche segno della complessità della situazione, sì. Come anche dall'esecutivo non è facile trovare una via di uscita, anche se col passare delle ore prende quota la possibilità che l'azienda sia commissariata. Cioè, non nazionalizzata come ha avanzato Boccia ieri, ma commissariata. Un inciso, c'è qualcuno che diceva perché parlate sempre di questa ILVA? Allora qua ci sono due problemi, da un lato c'è un impatto sulla salute degli abitanti di Taranto che spesso abbiamo ricordato, ma dall'altro ci sono anche 20.000 dipendenti a Taranto più altri 20.000 dell'indotto, sono 40.000 dipendenti in un'area come il nostro Mezzogiorno dove la disoccupazione è a record, ecco, questo è il motivo per cui ne parliamo. Scusa l'inciso, vai avanti. Prego, no, d'altra parte voglio dire tutti concordano sul considerare strategica questa attività. Non ci sarebbe stata una legge, non ci sarebbe stato il pronunciamento della Corte Costituzionale se non ci fosse un rilievo oggettivo dell'attività esercitata dall'ILVA. Dicevo che la situazione è complessa e tuttavia il governo è sempre più orientato, da quello che si apprende, a seguire la strada del commissariamento. Il commissariamento in questo modo servirebbe appunto a istituire una figura che riprenda in mano le redini della situazione e affronti le varie emergenze che sono legate all'ILVA, a partire dalle opere di risanamento ambientale. Il commissariamento scatterebbe non solo per gli eventi che sono precipitati in questi ultimi giorni col sequestro dei beni di Riva Fire, ma soprattutto perché sulla base della prima relazione dell'ISPRA e dell'ARPA sono state contestate all'ILVA una decina di infrazioni e di violazioni, cioè cose che l'ILVA non ha fatto in merito all'autorizzazione integrata ambientale, non ha rispettato i tempi, non ha rispettato quello che la stessa AIA prevedeva. Ma questo in che periodo? Perché il periodo contestato è quello che va da ottobre e per 3 mesi, perché la legge quindi quando già si era aperta la vicenda ILVA, certo, perché è importante, certo, sì. Che certo. Abbiamo una vicenda precedente e lì c'è la polemica anche oggi sui giornali tra Romano Prodi, che al tempo vendette l'ILVA e Riva hanno detto ieri in un'intervista Prodi ci consegnò un ferro vecchio, invece Prodi dice no, era non dico un gioiello, ma era sicuramente un impianto funzionante, non era lasciai un gioiello, dice lui in realtà oggi in un'intervista, era un bello stabilimento isolato dalla città. Ecco, Prodi dice una cosa interessante, al tempo in cui fu privatizzato era isolato dalla città grazie a una legislazione provvidenziale destinata a salvare gli abitanti dall'inquinamento. È stata poi la città con i vari piani regolatori ad andare addosso all'ILVA, e cioè ad allargarsi fino ad arrivare con l'edilizia residenziale vicino agli impianti. Chiudo anche questo inciso, Domenico. Quindi diciamo l'AIA decorre dal 26 ottobre scorso e da allora decorrono i 36 mesi entro cui l'ILVA deve fare degli investimenti e degli interventi sull'area a caldo, cokerie, altiforni, parchi minerali, per abbassare e ridurre drasticamente l'inquinamento. Il primo check dei 3 mesi dice che l'ILVA non ha fatto tutto quello che il cronoprogramma dell'AIA indicava e su questo appunto l'ISPRA ha fatto delle contestazioni, le contestazioni sono state poi girate al Ministero dell'Ambiente e su questa base possono già scattare le sanzioni previste dalla legge 231 che ingloba l'AIA, e per sanzioni parliamo di una multa pari al 10% del fatturato dell'azienda, e in più può scattare anche la procedura di commissariamento. D'altra parte la procedura di commissariamento è stata anche accelerata, come dicevo, dalle vicende ultime, dal fatto di un'azienda che ormai è priva, non ha più una proprietà perché i IVA sono investiti da pesanti cuori giudiziari, non ha più una governance perché il CDA si è dimesso a partire dal presidente Bondi e dall'amministratore dal presidente Ferrante e dall'amministratore delegato Bondi, quindi va ricostruito anzitutto un quadro di stabilità, mettere in sicurezza l'azienda in modo da poter affrontare i diversi problemi. Il pagamento degli stipendi ai dipendenti che è ormai immediato, dietro la porta il 10 giugno, gli interventi dell'AIA, rimettere in moto l'azienda, assicurare la liquidità che serve per fronteggiare l'emergenza. In queste ore, diciamo, il tema che sta tenendo anche banco è questa lettera che una trentina fra dirigenti di area, capi reparto, quindi la linea di comando operativa della fabbrica, hanno inviato sia Ferrante, Bondi e Lupoli. È una lettera che loro chiudono scrivendo con dolore, perché affermano: non ce la sentiamo di andare avanti così, noi non vogliamo commettere reati, non vogliamo fare del male a nessuno, però evidentemente le nostre valutazioni tecniche sono diverse da quelle di chi ci giudica e noi non ci sentiamo tutelati in nessun modo e da nessuno. Perché è successo questo? Perché il GIP, nell'ordinanza con cui ha disposto il sequestro per beni per 8 miliardi e 100 milioni di euro a valere sulla Riva Fire, parlando dei disastri chiama anche in causa la struttura di comando della fabbrica, non solo Ferrante, non solo Bondi, ma tutta la struttura di comando operativa. Lo raccontavamo anche prima, mi hai fatto bene a ricordarlo, Domenico, in una battuta, perché siamo in chiusura. Facciamo una previsione, intanto è una previsione, nessuno qua ha la sfera di cristallo. La commissaria non l'Ilva? Il governo sta lavorando per questa soluzione, quindi un nome dovrebbe uscire nelle prossime. Comunque il commissario viene vista come l'unica soluzione per sfilare definitivamente l'azienda dai Riva e metterli in mani un po' più sicure, in modo da affrontare poi. Sì, ecco, io lo dico adesso, vediamo cosa stabilirà. Però, se obiettivamente da ottobre in poi non sono state rispettate, come tu ricordavi, ci sono state gravi inadempienze nell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, questo non si giustifica molto, perché veniamo già da un periodo in cui avevamo fatto decine di puntate, articoli, giornali su quello che era stato il non rispetto di quanto richiesto, no, dall'ILVA. Per cui, insomma, questo è ancora più grave, quantomeno dal punto di vista temporale, secondo me. Diciamo che la vicenda del mancato rispetto delle prescrizioni negli ultimi giorni si è sommato anche al crollo della governance dell'azienda. Certo. Diciamo che il commissariamento ha avuto una spinta, un'accelerazione delle vicende accadute da venerdì in poi. Perfetto, grazie, perfetto si fa per dire, eh? Staremo a vedere se arriverà il commissariamento dell'Ilva. Grazie intanto a Domenico Palmiotti e da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, la piazzetta dove saremo a Trento, ma hanno corretto i trentini, piazzetta Pasi, dico correttamente, venerdì pomeriggio Focus sarà in diretta da lì, ci risentiamo domani. Radio 24, la passione si sente. Daga, documenta, accerta, www.axerta.it. Sono le 18. GR 24, il sole 24 ore. Camera sì unanime alla ratifica della convenzione di Istanbul.